Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Il cuore ha le dimensioni di un pugno chiuso e ha una forma simile ad una pera con la punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore, segue il ritmo delle emozioni. Normalmente in una persona adulta il cuore si contrae 60-70 volte al minuto. In una persona innamorata molte di più. A volte si arriva a 100 senza rendersene conto. Il cuore è l'ultimo ad andarsene. Lui continua a battere, anche quando viene sottratto all'organismo, anche quando la persona amata ti abbandona, anche quando tu non vuoi più soffrire. Non sei più tu che comandi quando sei innamorato, quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona. Non sei più tu che comandi, è lui. Un buongiorno di cuore a tutti voi. Mi auguro che questa sia o diventi una bella giornata. Ma a proposito di cuore, non tutti i cuori sono uguali. Quello di noi donne, ad esempio, è un po' più piccolo, ma non è questo il punto. Non sono le dimensioni a fare la differenza, ma ci sono cuori capaci di accogliere e comunicare emozioni e ci sono invece cuori che sembrano chiusi, impermeabili, incapaci di commuoversi, di provare compassione ed empatia. A volte, lo sappiamo, ma anche per esperienza alcuni di noi diretta, la vita li rende tali, la vita ci indurisce. E allora la domanda che vi vorrei porre oggi è proprio questa: che effetto ha avuto la vita sul vostro cuore? Lo ha intenerito o al contrario lo ha pietrificato? Oggi è proprio una di quelle puntate in cui vi chiedo di sintonizzarvi emotivamente con me, perché sono certa che sarà un bel esercizio anche per il nostro cuore. Tempo fa ho fatto un sogno in cui la gente poteva vedermi per quel che sono. Per un breve istante il mondo poteva vedere con chiarezza che cosa faccio veramente. Sono malvagio? Sono buono? Non me lo domando più. Non so la risposta. Voi la sapete? Buono o cattivo, tenero o di pietra, 800 24 00 24, se volete intervenire potete anche mandarci un messaggio al 349 238 6666, qui in studio un uomo di cui scopriremo il cuore che batte nella vita di tutti i giorni e quello che batte sul palco dove sta interpretando un personaggio shakespeariano molto intrigante. È tornato a trovarci a grande richiesta e con mio grandissimo piacere Shel Shapiro, Shylock, in questi giorni a Milano. Grazie Nicoletta. All'Elfo Puccini. Tra l'altro stasera è proprio la 114. Tresima, si dice così? Si replica? Dice così, sì. E però replicherete fino al 13 febbraio e poi di lì, qui a Milano, oltre, sì, un sì, po' sì, in sì, giro sì, per tutta Italia, Bari. Fino al 6 marzo e poi chiudiamo. E poi un po'. Sì, con Moni, Moni Ovadi, addio. Chi è Shylock? Shylock, beh, ce ne sono due Shylock. Shylock è l'uomo disegnato da Shakespeare, che è questo ebreo stereotipato, il cattivo, l'usuraio del naso adunco. E poi però nello spettacolo c'è l'indagine sul Shylock, l'essere umano, che deve subire, perché faccio una specie di Highlander, che ho 400 anni. Questo uomo che subisce, è un essere umano normale, però è stato disegnato, marchiato a vita da Shakespeare, scritto in un certo modo, che Shakespeare, che non aveva mai incontrato un ebreo poi. Veramente? Veramente, perché erano gli inglesi avevano espulso gli ebrei nel 1290 e li hanno fatto rientrare in paese nel 1665, quindi Shakespeare ha scritto per sentito dire. Un genio sì. Perché delle commedie shakespeariane noi proprio troviamo, no, una grande attualità anche ai nostri giorni. Lui ha visto alcune cose. Cioè, c'è per esempio un monologo di Bassanio che posso leggere un ma attimo? Certo. Okay, così diciamo, ci porti a teatro. Vi porto a teatro, vieni con me. Quanti codadi hanno cuori ingannevoli, come gradini di sabbia, eppure portano sul mento la barba di Marte, corrucciato e di Ercole, loro che, frugati dentro, hanno fegati bianchi come il latte, e questi, per farsi temere, vestono le escrescenze del valore. Guardate la bellezza e vedrete che si acquista a peso, e che dentro si compie un miracolo di natura, per cui chi più ne porta è più leggero. C'è tutto. Cioè, come c'è dice molta... Moni, è un articolo di fondo di oggi. E c'è, sì, perché è molto attuale, soprattutto l'ultima parte, no? Sulla... Beh, certo, la bellezza si acquista a peso. E quindi questo è un segno già 400 anni fa, nel 1600, di come il potere contrattava la figura femminile, certo. 800 24 00 24, cuori duri, cuori teneri, cuori a cui manca forse quella cosa che noi chiamiamo compassione. L'etimo la dice lunga, ma noi ci facciamo dare una mano per capirne di più dal professor Stefano Cappa, che è professore di neuroscienze cognitive presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno, come sta? Io sto bene, grazie. Ma compassione ci aiuta a capire se le neuroscienze riescono a così decodificare questa forma di... è un'emozione, è qualcosa di più, dove la sentiamo? La sentiamo nel cuore, ma forse si muove qualcosa già a livello del cervello. Guardi, voglio citare Shakespeare, in effetti, che proprio mi sembra il Mercante di Venezia. A un certo punto si chiede: ma da dove nasce la fantasia, dal cuore o dal cervello? Senta, ma questa è fantastica, Shell. Io invito un professore di neuroscienze che ti cita Shakespeare. Beh, è magnifico, ma qua mi emozionate. Deve venire con me a Puccini, però. Ecco. Shakespeare è incomparabile e non c'è nessun... Professore, lei ha guadagnato già subito un biglietto per lo spettacolo di Shell. Vede che, a proposito... Ci conto. È una frase che cito sempre ai miei studenti, in realtà, all'inizio del corso, perché la discussione se la sede delle emozioni, delle funzioni mentali, fosse il cuore o il cervello, è molto antica. E, diciamo, passare da Shakespeare ai dati di neuroscienza è un po' un precipizio, sì. Però secondo me c'è almeno un aspetto molto interessante che vorrei citare e far presente agli ascoltatori. Una scoperta molto influente degli ultimi anni nel campo delle neuroscienze, tra l'altro ne siamo tutti molto orgogliosi perché è marcata italiana, no? Sì. Che è quella dei neuroni a specchio. Mm. Di cui forse addirittura abbiamo già parlato. Sì, proprio con lei. Sì. Ha avuto un grosso impatto anche su questo aspetto, è strano, no? Perché in realtà la scoperta riguarda tendenzialmente il dominio motorio, quindi qualcosa abbastanza lontano, apparentemente. In realtà gli studi che sono stati svolti all'interno, diciamo, di questa idea, di questo modello, hanno avuto un'implicazione diretta proprio per la questione dell'empatia, perché in tutte le lingue c'è un'espressione mettersi dei panni degli altri, no? Sì. In inglese, se non sbaglio, mettersi nelle scarpe di un altro. È giusto, Shell. Sì, yes. non potrei mai insegnare al professore. questa espressione in realtà può essere interpretata dal punto di vista di un modello che i filosofi hanno sviluppato indipendentemente, cioè che un aspetto importante dell'empatia, della compassione, tutta la partecipazione alla... le emozioni degli altri è legata proprio a mettersi nei loro panni, no? Tecnicamente viene chiamato embodiment, sì. Rivivere in sostanza nel proprio corpo le esperienze degli altri. E noi con i metodi di cui abbiamo parlato già altre volte, delle neuroscienze cognitive, per esempio la risonanza magnetica funzionale, siamo in grado di vedere cosa succede nel cervello, per esempio quando vediamo una scena che desta una reazione emotiva, tipo qualcuno che soffre. Sì. E la cosa interessante, sono mai tanti studi che hanno dimostrato che le strutture, le aree, i sistemi che si attivano nel cervello in queste situazioni sono molto simili, si sovrappongono a quelli che si attivano quando proviamo l'esperienza noi stessi. Mm-hmm. E questo è stato visto per il dolore, per esempio. Se io vedo qualcuno che soffre, attivo nel mio cervello il sistema dolore, come se soffrissi anche io un po', no? E l'anno scorso abbiamo fatto degli esperimenti in cui abbiamo esteso questa cosa anche a emozioni complesse, tipo il rimpianto. Se mettiamo qualcuno in una situazione in cui possiamo interpretare che sta rimpiangendo la sua scelta, sì, nel nostro cervello si attivano le stesse aree che si attivano nel soggetto che sta effettivamente rimpiangendo aver fatto una certa scelta. Ecco, l'aspetto interessante e curioso, ma ovviamente poi molto complesso dal punto di vista delle implicazioni varie, e se noi possiamo con questo vedere anche le differenze tra le persone, no? E ci sono delle differenze, indubbiamente. Che state studiando, professore? Stiamo studiando, è un po' un campo minato questo. È un po' un campo minato, me ne rendo conto, ma quello che noi abbiamo capito è che anche Shylock, che è un uomo senza, almeno apparentemente senza compassione. Sì, sai, la compassione è una... non è la compassione, cioè mancanza di compassione non è cattiveria, ha un'altra forma. La compassione è quella cosa che ti permette di commuoverti davanti a qualcun altro. Certo. E non è detto che Shylock non abbia una sua compassione, è che in alcuni momenti ritiene di non doverlo usare, forse. C'è questa cosa bellissima, lo recito in inglese: "This kindness will I show, go with me to..." adesso ve lo dico in italiano, però "è di generosità, voglio darvi prova, venite con me da un notaio, firmatemi un impegno senza condizione, è così per gioco, se non mi ripagate nel tale giorno e in tale posto un tale somma o somme quale la scrittura dichiara, la penale sia una libra esatta della vostra carne bianca da tagliare e prendere in quella parte del vostro corpo che più mi piacerà." Professore, però è impossibile, vero, che non si provi compassione? Magari è solamente addormentata, perché il nostro cervello in qualche modo ha degli spazi, no? Deputati proprio all'empatia e alla compassione. Sicuramente, adesso la questione, vi dicevo un po' un campo minato, però la discussione è, sì, ci sono delle malattie in cui uno dei criteri è che le persone che sono colpite rimangono senza, che sembra non reagire, non riconoscere, non mettersi più nel panni degli altri. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Anche a voi. Tutto a un tratto, però, il giovane principe vide tra la folla qualcosa che non aveva mai visto prima. Gianna, chi sono quei? Su, dimmi, chi sono quegli uomini? Sono uomini come tutti noi, mio signore, che hanno succhiato il latte dal seno della madre. E perché hanno quell'aspetto? Sono vecchi, mio signore. Che vuol dire vecchi? La vecchiaia distrugge la memoria, la bellezza e la forza. E succede a noi tutti, mio signore. A noi tutti? Anche a te e a me. Meglio non stare a pensare a queste cose, mio signore. E da quel giorno, da quel fuoco, con quella gente, Siddhartha apprese cos'era la sofferenza e scoprì la compassione. Loro erano lui e lui era loro. Compassione, empatia, voi la provate, pensate di provarla? Qualcuno di fianco a voi nella vostra vita ve lo ha dimostrato? 800 24 00 24, perché non la provate più? Ci sono tanti messaggi, stanno arrivando le telefonate, è arrivato anche il nostro ospite, il professor Giorgio Maria Bressa, docente di psicobiologia del comportamento umano all'Università IPU di Viterbo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professore, intanto io vi invito a scriverci un messaggio che ci racconti un po' del vostro cuore, se è duro, se è tenero, se sta, qualcosa sta cambiando, qualcosa l'ha cambiato. Il messaggio più intrigante sarà scelto dal nostro Shylock, riceverà a casa L'Empatia, è un libro edito dal Mulino, 349-238-6666, allora sintonizzatevi per parlare di empatia. Professor Bressa, abbiamo capito che cosa provoca a livello del nostro cervello. Sì, però voglio anch'io vincere il biglietto di Shell, perché è un mio mito. Allora, gli faccia una... Professore, lei già invitato. Ma che colpa abbiamo noi? No, 1880, Dostoevsky era... commemorò la morte di Pushkin e disse: un uomo può fondare la propria felicità sull'infelicità altrui? In che modo placare lo spirito se dietro a una persona vi è un gesto indegno, privo di compassione, quasi disumano? Che tipo di felicità è mai quella che si basa sull'infelicità altrui? Dostoevsky, giugno 1880. Bello, ma certo che questi nostri professori sanno, come si dice. Oh yes. Senta professore, mi racconta di quel centro che è stato proprio creato presso l'Università di Stanford sotto l'impulso degli insegnamenti spirituali del Dalai Lama. Per molti ascoltatori magari questa sarà una novità, c'è proprio un centro dedicato di ricerca. È nato proprio alla Stanford University, questo centro per gli studi compassionevoli, sì, con l'alta partecipazione anche economica e contributiva del Dalai Lama, dove si sta, appunto, come diceva prima il professor Kappa, lavorando sulle cognizioni che stiamo acquisendo sul funzionamento del cervello relativamente, appunto, ad empatia e compassione. Ed è estremamente interessante come gli studi ongoing, gli studi in corso, fatti ad esempio sui monaci buddisti, i quali sviluppano attraverso proprio gli studi e la loro partecipazione lo sviluppo della compassione, bene, se sottoposti a esercizi ulteriormente rinforzanti, che possono essere la preghiera e la meditazione, essi dimostrano che l'area dell'empatia, l'area della compassione nel nostro cervello tende ad aumentare di volume, e questo è assolutamente straordinario, che il nostro cervello possa, nella sua serrata presenza di neuroni che si intersecano, addirittura diventare maggiori, alcune aree diventare maggiori, perché un esercizio ripetuto fa crescere, e quindi se lo fa crescere è possibile che noi si debba, e lo metto come imperativo categorico a tutti i livelli, usare la compassione, spargere la compassione, insegnare ai figli, agli altri, la compassione come strumento indispensabile per ridurre le distanze abissali che vanno separando uomo da uomo. Fantastico. Lo mettiamo come materia. Professore, io volevo chiederle, secondo lei, come è possibile che oggi come oggi c'è una tendenza a utilizzare la compassione apparente per attirare simpatia, quando questa compassione è assolutamente inesistente? Come mai gli esseri umani che ci cadono? Cioè, voglio dire, senza essere esplicito, però la politica oggi è basata su questo. Sì, è perché il modello che è andato crescendo, forse negli ultimi 30 anni, con una società sempre più aggressiva, sempre più consumistica, ha posto l'apparire, l'apostrofo apparire, come strumento fondamentale di riconoscimento di sé, e quindi si inventano delle strutture psicologiche, dei comportamenti non sentiti empaticamente per poter rappresentare un'immagine che sia capziosamente accettabile, che possa configurarsi come la migliore possibile, che si insomma possa incontrare il beneficio della disponibilità altrui, salvo poi provvedere alle truffe. Mi viene in mente, ma proprio così al volo, un flash dei direttori di banca che consigliavano l'acquisto empaticamente, grazie all'avere carpito la fiducia dei loro clienti, all'acquisto di bond e fasulli che hanno rovinato in tutto il mondo intere famiglie. Mi scrive un ascoltatore, tu parlavi dei politici, se la mancanza di compassione è una malattia mentale, il professor Kappa in realtà non ha parlato di malattia mentale, ha detto che ci sono delle malattie che attutiscono, disinnestano questa compassione, allora ci scrive gli ascoltatori, i nostri politici insensibili ai drammi del precariato sono tutti psicopatici. Ma io andrei da Luisa, che ci chiama da Modena. Buongiorno Luisa. Buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti. Sì, ho visto che sei un po', sei più entusiasmata, è entrata più in empatia con Shale, perché ha sentito la sua vocione e ha detto buongiorno. Forse anche, per questa è una domanda che voglio chiedere, scusi Luisa se la interrompo, ma mi si è accesa una lampadina. Professor Bressa, è anche cioè, l'empatia si stimola e si accende, si modula anche in base alla voce, hai bastato ad esempio il buongiorno di Shale, no? Per far cambiare il tono a Luisa. Beh, magari è un caso, però è insomma. Un caso, sì, eh. Ma non pensa. Professore? No, non è un caso, perché esiste una piccolissima area che si chiama amigdala, mm-hmm, che ha le funzioni di far rivivere le emozioni attraverso una serie di ripercussioni che poi vanno ad agire sul nostro comportamento. Quindi i neuroni specchio funzionano come elemento di imitazione, e quando questo circuito si chiude, la nostra disponibilità verso il prossimo cresce o decresce sulla base delle nostre singole esperienze personali, per cui un vocione può intimorire, ma un vocione anche può incoraggiare. Luisa. Wow. Luisa. Buongiorno. Buongiorno. Adesso noi abbiamo i mercati. Vuole stare con noi o fare veloce la... Ma stia con noi, Luisa. Tanto parliamo di empatia, stiamo vicini. 800 24 00 24, ricordatevi il libro, stanno arrivando dei bellissimi messaggi. C'è chi dice sono diventato più empatico con gli anni, chi dice esattamente il contrario, mi scappano spesso le lacrime, non riesco più a piangere. 800 24 00 24. Essere e benessere. C'è Luisa da Modena che ci sta aspettando. Luisa? Luisa? Non c'è più Luisa, ma vado a Pierluigi da Roma. Buongiorno. Buongiorno Pierluigi, lei come sta? Bene, bene, direi bene. Un po' raffreddato, ma insomma ci sta in questa stagione. Quindi un lavaggino nasale non fa mai male, soprattutto quando si ha l'influenza, il raffreddore. Ma venendo, ecco, anche questa, no? Professor Bressa, è empatia. Sì, è una... O è ficcanaggine? No, forse qui andiamo un pochino sull'eccesso. L'empatia è più veramente qualcosa di profondamente mentale, vorrei dire, anche se ha le sue origini nel cervello. Però posso fare una piccolissima cosa che non c'entra niente, però non posso perdere, la posso? Certo. Allora, testo. Se ti fanno un po' soffrire, perdonami perché non sanno cosa fanno. Io soffro come te. Se il tuo sorriso triste non li ha convinti mai, tu non li devi odiare, perdonami se puoi. Qualcuno deve amare e lo faremo noi. Lo conosco. No, lo conosciamo. Scusate un attimo, ma io mi sono persa, poi vi parlate, ma io mi sono, grazie per lo spunto perché è molto interessante, ci torneremo, ma Pierluigi... Sì. Se no qua la interrompiamo sempre. No, era comunque interessante e suggestive le parole del professore. No, quello che volevo chiedere io è praticamente se nasce prima un sentimento di compassione, di conseguenza una visione, o viceversa, cioè se è una vigilia che ci trasporta un sentimento di compassione. E poi velocissimamente un'altra cosa, io ho notato che riesco in un'applicazione empatica e anche a una possibilità di elaborare informazioni, molto crudo come lo dico, proprio quando applico un atteggiamento di totale distrazione e non mi approprio indebitamente dell'altro, pensando, supponendo che miei pensieri, quindi proiettandoli. Ecco, essenzialmente questo. Grazie Pierluigi. Voi volete continuare sulle parole o vogliamo rispondere a Pierluigi, professor Bressa? Perché la citazione era obbligatoria, l'ho trovata affannosamente, ma perché non la ricordavo completamente a mente. Piangi con me, piangi con me. Ma tu sei altro che, o no? Sì. Quindi il tema ti era caro. Ma sai, in qualche modo io trovo che questo discorso della compassione o mancanza di compassione è una cosa molto individuale. Shylock invece ha in bocca, attraverso le parole di Shakespeare, il monologo più famoso della storia, dell'uguaglianza però, perché dice se ci pungete non sanguiniamo. Parlando degli ebrei, sì. Se ci fate solletico non ridiamo, se ci fate torto non ci vendicheremo. E viene utilizzato, detto da un ebreo, ma viene detto soprattutto del diverso, cioè perché viene puntato come diverso, come può essere adesso diverso Shylock oggi. Shylock non è più solo un ebreo, ma è tutto una zona di persone, diverso. I deboli, perché sono sempre i deboli a essere con il dito puntato contro, perché è più facile batterli. Quindi questo però richiude in qualche modo la necessità di compassione e di muro contro la come si dice, la prevaricazione di certe persone. Io, professor Bressa, ho proprio gli ascoltatori che mi stanno scrivendo al 349-238-6666, ricordo il titolo del consiglio di lettura di oggi, l'empatia, e c'è proprio una spaccatura. Chi mi dice non provo nulla ed è la vita che mi ha indurito, non mi fa provare più nulla. Altri invece che mi dicono il mio punto debole è proprio essere troppo compassionevole, troppo empatico, mi commuovo troppo e la gente se ne approfitta. Ma sono estremi. Noi non possiamo ignorare che, come perfettamente spiegava il professor Cappa, la presenza di un centro cerebrale la cui funzione è quella di identificarsi nell'altro precede ovviamente lo sviluppo della mente, nel senso che si crea, si genera, nasce prima della nascita. Poi i fattori educativi, ambientali, le esperienze modificano l'utilizzazione di questo centro come modificano l'utilizzazione di tanti altri centri, alcuni vanno assottigliandosi di valore espressivo, altri in altre persone si ipertrofizzano. Allora non c'è un troppo o un troppo poco, c'è una quantità di esperienze, di vissuti che comprendono carattere, personalità, ambiente, educazione, religione, tutto quello che vogliamo, che influenzano la nostra risposta cognitiva, cioè mentale, e che poi ci rende differentemente capaci di utilizzare. Sì. Un animale è a propria volta ha una struttura di compassione perché lo si vede da mille esempi entro i quali lo esercitano, ma privi della mente o comunque con una mente diversa non lasciano spazio alla parte cognitiva che interferisce e modifica qualcosa che se viene esercitato cresce, se non viene esercitato decresce fino a diventare purtroppo quasi inutilizzabile. Quindi, quindi l'invito di oggi è coltivatela, fate crescerla, recuperatela. Educatela, insegnatela, spargiamola, viviamola, indigniamoci come il libro che sta per uscire. Sì, e non posso aggiungere che la compassione è un sentimento umano, non un sentimento religioso. Assolutamente sì. E del cervello vorrei dire ancora, Shell. Poi c'è ancora prima delle emozioni. Sì. Lo chiamiamo Shell o lo chiamiamo Shylock? Ormai lo chiamiamo Shell. Ormai mi hanno chiamato di peggio. Antonio, dalla provincia di Varese. Antonio. Sì, buongiorno. Io a lei non mi risponde. No, è che... Cosa stava facendo, Antonio? No, è che sto lavorando, sono nell'ambito lavorativo. Ah, ok, allora parliamo piano. No, volevo solo dire una cosa, che forse può essere che compassione diventa la mancanza o la perdita di compassione diventa un elemento di sopravvivenza. Cioè, perché... mi schermo, cerco di essere un po' più duro, devo schermarmi perché la gente, se no, mi frega, Shell. Ma è una, sì, è questa cosa che dicevamo prima, della protezione. Il problema è che o uno ha questa compassione e impara a vivere con i suoi, di gestire la compassione che ha, e ce ne sono altre persone sicuramente che si sentono debole mostrando la compassione, allora diventano apparentemente più dure. Poi è solamente una facciata, però, mi pare, che porta però dei cambiamenti di comportamento, di reazione, di risposta, di modo di pensare. Andiamo a Natale, che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Natale, lei si è indurito nel tempo, si è intenerito? Così rilancio il sondaggio, sì, certo, di oggi. Diciamo che sono profondamente empatico fin dalla nascita, cioè sono un carattere estremamente empatico, perché mi identifico sempre con l'altra persona con cui mi confronto, quindi anche per esempio nel caso di un condannato, di un delinquente, eccetera, io ho la tendenza a identificarmi per capire, e quindi c'è questo sentimento sempre di condivisione dei sentimenti. Però questo mi ha portato nella vita, diciamo, io ho 62 anni, mi ha portato nella vita di grossi problemi, sia a livello familiare, perché mia moglie è completamente l'opposto, quindi praticamente mi becco continuamente l'epiteto di debole, di carattere debole. E poi nel lavoro, perché io faccio l'imprenditore, quindi automaticamente sono penalizzato in un modo terribile, sia dai clienti che dai dipendenti, eccetera. Cioè, ho praticamente sofferto sempre questo. Vi ricordate, c'era una pubblicità qualche tempo fa che diceva "tempi duri per i troppo buoni"? Professor Bressa, lei se la ricorda? Ma la ricordo, erano biscotti. Ecco, erano dei biscotti. Ma insomma, racconto un po' quello che ci raccontava il nostro Natale. Ci sono delle persone che a essere empatiche finiscono con l'essere fregati, avere delle difficoltà sul lavoro perché la gente se ne approfitta, oppure essere così tacciate di deboli, no? Ma tu sei uno che si commuove sempre, dai. Ecco, è così adesso. È un po' duro. Vorrei essere un po' duro, perché bisogna poi anche nella vita, dalle miliardi di occasioni che si creano, scegliere le persone con cui rapportarsi. È inutile nascondere che nelle diversità che si nascondono dietro le teste, i cervelli di ognuno di noi, ci sono elementi fascinosi ma anche elementi che non ci piacciono. Si deve arrivare ad un certo punto in cui le persone con cui ci si rapporta con maggiore frequenza, con quelle con cui si sceglie di vivere anche una parte della vita, sappiano condividere empaticamente con noi, sì, e quindi non esserci contro. Se continuiamo a pensare di avere torto perché ci dicono di avere torto o ragione al contrario, ma non ci coltiviamo dei rapporti umani entro i quali si scelga con estrema decisione e precisione quelli con cui si può andare più d'accordo, finiremo inevitabilmente di formare dei gruppi amorfi, mentre dei gruppi più distinti, che sappiano vivere delle modalità comuni, rende il gruppo nettamente più forte. Insomma, non ce le manda a dire il professor Bressa, ci bacchetta per bene. No, ma io credo che il professore ha proprio ragione. Io lo so, una delle grandi conquiste, crescendo, diventando più vecchi, è di scegliere con chi lavori, di avere il privilegio di poter scegliere gli esseri umani con cui lavori. Allora uno cerca sempre di evitare di trovare persone che empaticamente siano vicini, dove c'è un comunicazione mentale, proprio anche senza dire nulla, cioè ci sono delle persone dove tu mentalmente percepisci che sei d'accordo. Io provo empatia, ci sono, non lo so, quando uno dice, sai, una sensazione a pelle. Io già dal primo sguardo, alla prima volta che conosco una persona, so se con questa persona ci sarà empatia o no. Raramente mi sbaglio, la guardo negli occhi e poi soprattutto come tiene gli occhi, poi magari mi sbaglio, insomma. Forse le donne sono più intuitive su queste cose. Quello che io chiamo sesto senso, che non mi sentano gli addetti ai lavori, quelli che si occupano di neuroscienze, ma insomma si vede, non so se ve ne accorgete anche voi, insomma, quello a pelle, a sguardo, quella persona. 800 24 00 24, è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Poi torniamo subito dopo insieme, tra poco. Essere e benessere. E siamo tornati insieme con Shel Shapiro, Shylock, in questi giorni fino al 13 di febbraio all'Elfo Puccini di Milano, ma poi di nuovo in giro. Abbiamo il professor Con Monio Vadi, sì, assolutamente. È il mio maestro in qualche modo, ma stiamo scherzando. No, avremo anche lui, speriamo che venga a trovarci. In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Maria Bressa, parliamo di compassione, quanto ci aiuta anche a godere la vita, no, professore? Sì, perché è come se destabilizzasse il provare l'emozione della compassione, destabilizzasse la maggior parte delle misure razionali, delle misure intelligenti, super intelligenti di difesa o quant'altro, perché va a toccare un elemento che sicuramente antico quanto l'uomo, perché non riesco a pensare che quando iniziò il linguaggio tra gli uomini non sia immediatamente scattato il rapporto tra le persone, la stretta di mano, l'abbraccio, il conoscersi, salutarsi. Vede, lo sguardo, quindi io sono rimasta un po' primitiva, questo mi sta dicendo. No, ma lo siamo tutti, fortunatamente. Meno male. Perché sono le virtù, tra virgolette, forti che hanno creato una struttura nel cervello. Questo non può essere dimenticato, che hanno preso il sopravvento tanto da diventare geneticamente trasferibili, cioè noi trasferiamo la nostra disponibilità all'empatia nei nostri figli attraverso prima il codice genetico e poi l'educazione. E allora è così profondo, è così destabilizzante vivere un sentimento di compassione che ci si ritrova veramente con una povertà assoluta e quindi con anche una gestualità dei comportamenti quasi arcaici, completamente nuovi per chi è abituato viceversa a fare sempre riferimento alla forma, all'apparenza e al modo con cui si possa essere giudicati. Io credo che ci siano persone a noi vicine, penso ad un amico, al nostro partner, mi rifaccio un po' al nostro amico di prima, Natale, che incontriamo e da cui vorremmo, no? Esigiamo per certi versi compassione, intesa proprio come attenzione a noi e empatia. Compito del medico curare il malato? No, curare la malattia è il compito del medico. Trattare con i pazienti è quello che manda il medico in depressione. Vogliamo eliminare il contatto umano nella pratica della medicina? Se non parliamo con loro evitiamo di mentirci a vicenda. Lo conoscerò mai il dottor House? Magari li incontrerete per caso al cinema o sull'autobus. È una brava persona? Diciamo che è un bravo dottore. Buongiorno malati e buongiorno anche ai loro cari. Tanto per non perdere tempo con inutili ciance, io sono il dottor Gregory House, potete chiamarmi Greg. Sono uno dei tre medici di servizio in clinica stamattina. Io sono un abilitato, un diagnosta cronicamente annoiato con duplice specializzazione in malattie infettive e nefrologia, nonché l'unico medico che lavora qui contro la sua volontà. È così, no? Ma niente paura, per molti di voi per fare il mio lavoro basterebbe una scimmia con una scatola d'aspirina. Allora, chi sceglie me? I vostri messaggi mi dicevano: i medici, nel rapporto medico-paziente si perde la compassione. Io ho voluto, prendendo spunto da questi pezzetti del dottor House, invitare la dottoressa Maria Giovanna Luini, che è comunicatore scientifico di IEO, l'Istituto Europeo di Oncologia, e scrittrice. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Lei tra l'altro è anche nostra amica di Facebook. Sì, molto. Molto, molto. Allora, spesso dai medici si rimproverano i pazienti, dicono, insomma, questo non mi ha neanche guardato in faccia, non mi ha detto niente, mi ha proprio comunicato solo la diagnosi, io ho visto una freddezza, siamo dei numeri. Non tutti i medici sono così, non tutti, per fortuna, non tutti i pazienti dicono le stesse cose, però Shell, sei d'accordo? Molto spesso, no? Nel rapporto medico-paziente viene... Sì, io ho diversi amici medici e lo so che loro in genere è una forma di autoprotezione. È vero? Questa. È vero, dottoressa Luini? È una forma di protezione? In generale sì, credo che lo sia, anche se questo secondo me non giustifica fino in fondo. L'empatia, la compassione, la partecipazione... E anche il reciproco comprendersi sono necessari. Io non potrei mai rinunciare alla parte di empatia. È chiaro che poi va gestita, perché quando sei di fronte a persone che hanno bisogno di te, devi capirle in toto. Non è vero che si cura la malattia, ci si prende cura della persona, qualunque sia la specializzazione. E la persona mi comunica qualcosa che io voglio comprendere, perché tutto mi serve per aiutarla. È evidente che non posso però farmi emozionare tanto da perdere l'equilibrio e la lucidità. Quindi questo è il passaggio critico. Ma togliere empatia nella comunicazione non va bene. Perché, professor Bressa, cioè, a esagerare si può perdere un po' il controllo della situazione, come diceva la dottoressa Luini? Sì, sono perfettamente d'accordo. Talora è difficile, dipende poi dalla specializzazione. Chiaro che per uno psichiatra che non ha strumenti l'empatia è fondamentale, se manca di empatia è davvero finito. Meglio che vada ad aprire un negozio di ortofrutticoli. Ma sotto l'aspetto anche lì però ci vuole, no? Ci vuole empatia per vendere frutta e verdura, assolutamente. Anzi dovremmo esercitare. Il messaggio di oggi è: provate a interrogarvi, andate a vedere che cosa c'è dentro il vostro cuore, se riuscite a entrare un po' nelle scarpe o nei panni degli altri, come si dice in inglese? In the shoes of someone else. Ecco, cioè, qua non è che, no? E poi soprattutto pensate che si può in qualche modo riattivare, ad esempio, come mi suggerisce un ascoltatore, con la meditazione. Professor Bressa, è vero? La meditazione assolutamente, ma non necessariamente entrando poi nelle tutte le modalità che la meditazione orientale prevede, perché noi siamo occidentali e il nostro cervello è comunque diverso e non potrà imitarlo ma non farlo suo, ma anche soltanto la capacità di riflessione, anche soltanto l'analisi dei comportamenti di cui siamo insoddisfatti, perché basterebbe fare la somma la sera. Ecco, a proposito di somma, io devo chiudere proprio 10 secondi, ma dottoressa Luini, lei è anche scrittrice, possiamo dire che anche la scrittura, non importa se poi questo lo mettiamo sul cassetto, lo teniamo per noi, anche la scrittura può riattivare un po' questa emozione, questa mamma delle emozioni, perché in fondo, no, l'empatia, attraverso poi l'empatia si nascono, no, tutte le altre. Sì, la scrittura è un canale fantastico, riattiva, attiva e fa capire molto del mondo e molto delle emozioni proprie e degli altri. Dobbiamo dare il libro ad uno dei nostri ascoltatori. Oddio. Che Shell ha scelto. No, Shell non ha scelto. Non ha scelto, allora, dato che Shell non ha fatto i compiti, però lo giustifichiamo perché, no, lui perché è Shell, Shylock. C'è un sacco di messaggi. Allora, noi adesso lo terremo qui, tanto sì. Che io dopo ho la linea, e lui cercherà, sceglierà, lo metteremo sul nostro sito e quindi andate anche sulla pagina di Essere Benessere, perché se siete a Milano fino al 13 di febbraio Moni Ovadia e Shell Shapiro il con Ruggero Cara, Lee Colbert e Federico Vincente, il Mercante di Venezia. Yes. A domani.